Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di Gettone, scritto Jet 1 con il numero. Un podcast che si occupa di videogiochi, vecchi, nuovi, grandi, piccoli, e che lo fa partendo ogni volta da una parola chiave e invitando degli ospiti a riflettere su questa parola chiave in relazione alla loro esperienza con i videogiochi. Fassone e mi occupo di videogiochi all'università e come designer, game designer con un collettivo di amici che si chiama Dot 20 e con me c'è il mio co-conduttore, oppure colui di cui io sono co-conduttore, Mauro Salvador. Ciao Mauro. Ciao Riccardo, ciao a tutti. E come capirete presto, Riccardo è quello entusiasta, io sono quello invece un po' distopico che tende a deprimere il pubblico. E insieme tuttavia siamo capaci di grandi cose, come per esempio un epocale touchdown a Madden NFL, dei cui sconsiderati festeggiamenti, urla, abbracci e calci alle tavole e alle sedie ancora si mormorano nelle zone residenziali più in di Atlanta, Georgia. Assolutamente, una serata indimenticabile. Quindi noi siamo i conduttori ideali di un programma frizzante e ogni puntata di Gettone ha un argomento e uno o più ospiti che chiacchierano con noi di questo argomento. L'argomento della prima puntata è ovviamente, o più o meno ovviamente, l'inizio o gli inizi della nostra carriera di videogiocatori o dei generi videoludici che più ci piacciono o delle storie del videogioco possibili o dei videogiochi a cui abbiamo giocato. Ed è con noi per parlare di storia del videogioco, conservazione, preservazione di questo medium così affascinante e di altre cose divertenti, Andrea Dresseno, leader massimo direttore dell'archivio videoludico della Cineteca di Bologna. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Anche se direttore mi fa un po' strano, meglio curatore. Curatore, perfetto. Però non sei formalmente direttore, sì. Si può dire. No, formalmente sono responsabile, però curatore è più bello. Curatore è molto più bello, perché dà l'idea... Tra l'altro tu fai il lavoro forse più in assoluto più bello del mondo. Sì, sì, Dan, effettivamente è un bel lavoro sulla carta, con tutti gli ostacoli poi che puoi avere concretamente, perché non è facile conservare il videogioco, però... Cioè, non è facile perché non c'è ancora questa cultura conservativa applicata al videogioco, non è ancora così diffusa, però è un bel lavoro, sì. Allora, facciamo... una cosa, raccontaci in 3 minuti la storia dell'archivio e perché è importante l'archivio e qual è la sua missione nella preservazione dei videogiochi. Va bene, allora 3 minuti. No, l'archivio videoludico è nato nel 2009, quindi ormai ha 6 anni, è una certa età, ed è nato dentro la Cineteca di Bologna. L'obiettivo era quello di appunto cominciare a pensare che anche il videogioco dovesse essere conservato, perché alla fine si conserva ormai, non dico tutto, però si conservano molti media, si conservano i libri, i film, i fumetti e tanto altro, però il videogioco non veniva ancora conservato, quantomeno in Italia, da quanto mi risulta all'epoca, e non in maniera strutturata, perché esistevano ed esistono realtà bibliotecarie che hanno delle piccole collezioni o delle collezioni anche più nutrite, però l'archivio videoludico era un progetto che puntava non solo a conservare, ma anche poi a dar vita ad un percorso di ricerca sul videogioco, quindi era in qualche modo al tempo un progetto abbastanza pioniere. E quindi è iniziato con questo obiettivo conservativo e poi da lì... si è allargato con altre attività, perché appunto c'è un fondo di videogiochi che è disponibile per chi vuole utilizzarli, che sia uno studente, che sia un appassionato, ma poi ci sono attività collaterali come i laboratori nelle scuole, a volte delle rassegne cinematografiche, degli eventi speciali organizzati in biblioteca appunto dove è l'archivio, premi universitari, c'è una serie di attività proprio perché la conservazione è solo il primo passo. è un po' un punto di partenza, perché sì, è importante conservare, ma è importante anche dare vita e far fruttare quello che c'è. Quindi c'è un fondo di giochi che, tra l'altro, quando ho aperto l'archivio era di circa 800 giochi, ora sono 4550 più o meno. E quindi sì, è cresciuto l'archivio come giochi, è cresciuto anche come fondi collaterali, perché c'è un fondo di libri sul videogioco, un fondo di riviste, di tesi e anche di film sul videogioco. Quindi diciamo sì che è una realtà stratificata. E E aperta al pubblico, giusto? Cioè, insomma, uno sì, è ci può aperta al andare. pubblico, quindi chiunque vuole, cioè chiunque voglia può venire a giocare. È tutto gratuito, è come una biblioteca, solo che invece che trovare dei libri, cioè ci sono anche dei libri, Quindi è trovi esattamente come una biblioteca. sì, solo che sono dei giochi invece che dei libri, essenziale. E comunque se David Bowie conservava i suoi fluidi corporali in dei vasetti, non vedo perché tu non puoi conservare dei videogiochi in una biblioteca. Assolutamente. Ma sì, ma Questa è infatti una fanno mentalità. musei archivi per tutto, c'è pure anche il museo del Wuster, quindi voglio dire, ci Veramente? sta. Ah sì, a Berlino, il museo del Currywurst. È quello lì? Però Appunto, qua per dire che si conserva ormai tutto, c'è anche un po' una deriva volendo, infatti scusa, ci si ti stai poteva tirando la zappa sui piedi. Si conserva un po' tutto, quindi anche i videogiochi. Saranno importanti anche. questi infatti cacchio di all'inizio videogiochi. diceva così e mi è venuto subito in mente Bowie, però vabbè. No, ma io È un po' ovviamente un autogol, in effetti. non voglio dire che il videogioco sia come un viewster, sto dicendo semplicemente che si conserva sempre di più. Obiettivamente adesso, Di un tornando serio, il viewster. discorso è che il videogioco ha un impatto effettivamente culturale e sociale molto forte, è un oggetto di studio Pari al viewster, forse. pari al no, E ai spero di fluidi più. di David E Bowie, però. fluidi di David Bowie, certamente. Spero di più. E niente, 3 minuti ce l'ho fatta, più o meno in sintesi, estrema sintesi. Direi che possiamo iniziare a parlare degli inizi, partendo da un giro di considerazioni sugli inizi della nostra carriera di videogiocatori. Allora, io a dire il vero ho iniziato come scroccone, nel senso che non avevo console da gioco o computer a casa, quindi mi ricordo che quando ero piccolo andavo a sfruttare il Commodore di un mio amico. Pure Ecco, quindi. io. Io ero l'amico col Commodore, invece. Ma chi è che non c'aveva il Commodore? Cioè, in realtà ce l'avevano tutti il Commodore all'epoca, nel senso, tranne me, Tranne però te, molti però. ce l'hanno. E me, Vabbè, esatto. eravamo in due, tre, quello che è. Comunque qualcuno non ce l'aveva. Io andavo a scroccare il Commodore a casa di un amico e quindi giocavo a dei giochi, però di cui non ricordo nulla, perché io ricordo che andavo a giocare col Commodore, però non ricordo cosa giocavo su Commodore. Ok, ma parliamo Quello. di, diciamo, fine anni 80, grosso modo. Sì, 87, 88, sì, più o meno. Ok. Quello che ricordo chiaramente sempre di quegli anni è invece la mia esperienza in sala giochi, perché andavo in sala giochi in questo specie di piccolo paesino, anzi una frazione di un paesino disperso nel basso Veneto, e c'erano solo due cabinati, e c'erano Bubble Bubble e Double Dragon. Quindi diciamo che io ricordo come prime esperienze se serie questi due giochi. Infatti io a Bubble Bubble sono ancora affezionato moltissimo, non solo perché è un bel gioco, ma perché è appunto un gioco che ho giocato tantissimo quando ero piccino. E a Double Dragon E no? Double Dragon meno, Il cioè gioco era che un si bel apre con il gioco. Più pugno in difficile. pancia dato a una passante? Ecco, infatti, vedi, c'era pure questo atto di violenza. Non so che cosa. Non so Immotivato. che Peggy avrebbe oggi Double Dragon, però effettivamente iniziava subito con un pugno alla passante, c'era anche questa violenza. Infatti Così, era un bel gratuita. gioco comunque, Sì, però Bubble certo. Bubble Ma che secondo cos'è me. il PEGI? Che cos'è il PEGI? Non È giusto. usiamo dei termini. Ah, ma è giusto, è perché prima infatti parlo di Peggy, però non è effettivamente il Peggy, è un sistema di autoregolamentazione che si è dato l'industria e serve a classificare i giochi per età e contenuti. Quindi ti dice se un gioco è adatto, a che età è adatto un gioco. Ci sono diverse fasce d'età, si va dall'età dai 3, 7, 12, 16 e 18. In più, oltre a dirti la fascia d'età consigliata minima, ti dice pure che contenuti ha il gioco. Quindi se c'è violenza, se c'è discriminazione, se c'è uso di droghe, se c'è invito al gioco d'azzardo, altre cose che non mi vengono in mente. Comunque sì, diciamo che ti dà un'idea di contenuti nel gioco, in modo tale che tu sappia bene che ne so, che Grand Theft Auto 5 non dovrebbe in teoria giocarlo un bambino di 6 anni. Sì, Dico in fa teoria il perché. jackpot del PEGI Grand Theft Anche Auto se io da 5. bambino di 6 anni, se vedo tutte quelle le etichette con tutti questi contenuti, è la prima cosa che voglio giocare, evidentemente. Ma infatti io sono stupito perché quando a volte andiamo nelle classi a fare i laboratori, eravamo una volta in una tipo prima o seconda media, quindi bambini che hanno 10 anni, 11, non lo so, in prima media che hanno 12, non lo so. E mi ricordo che tutti quanti giocavano a GTA perché faceva più figo giocare a GTA. Effettivamente c'è quel, immagino ci sia quell'idea che il gioco da adulti sia più figo di un gioco da ragazzini. Sì, ma E non è quindi un'idea, è per... vero però. Ma Anche non è secondo vero, me. dai, scusami, Super Mario Galaxy è un gioco 3+, No, ma... hai ragione. Voglio dire, rispetto a GTA, non dico no, non è meglio di GTA, però è un gran gioco lo stesso, quindi dai, non è che per forza 18 più sia sinonimo di essere più fighi, No, no, sono semplicemente d'accordo, sì. sono d'accordo. Non c'è l'invito al gioco d'azzardo in Mario Galaxy, no? Non mi sento Vabbè, invito ci sono le al gioco d'azzardo. monete però, ci sono monete dappertutto. Monete da collezionare. Sì, è vero che su New Super Mario Bros. 2 su 3DS è un invito al consumismo perché è pieno di monete Eh ovunque. sì. C'è in effetti anche lì, però non credo ci sia gioco d'azzardo dietro tra i bollini. Vabbè, Ce l'avete i ragazzini che vengono in archivio a chiedervi di giocare ai giochi a cui non potrebbero giocare? vabbè. Certo, capita spesso. Io devo purtroppo dirgli che il PEGI viene rispettato in archivio, quindi non possiamo far giocare a GTA 5 se hanno 14 anni. Poi loro a casa lo fanno lo stesso, però l'idea è quella che comunque in archivio si dia valore anche a questo tipo di, anche al PEGI, perché di fatto è uno strumento utile, cioè giusto riconoscere il valore. Poi il fatto che non abbia valore legale in Italia è un altro discorso, che poi appunto nel Regno Unito invece ha valore legale, quindi nel Regno Unito se un negoziante vende un gioco 18 più ad un bimbo viene multato, da noi non accade, poi lì si aprirebbe anche... No, Vabbè. apriamola, apriamola questa finestra. No, nel senso che spesso mi sono detto perché non rendere il PEGI legale anche da noi? E in effetti c'è un problema a cui a volte non si pensa, ovvero se tu rendi il PEGI legale da noi, ovvero che puoi multare il negoziante che vende il gioco 18 più a un bambino, certo puoi tenere d'occhio il negoziante, ma come tieni d'occhio Amazon o i negozi online? Certo, però Cioè questo rischi non di... succede neanche nel Regno Unito, immagino. E non lo so bene, infatti vorrei che a volte vorrei indagare un po' di più come viene applicato nel Regno Unito per i negozi online, perché appunto sul negozio fisico è più facile, sull'online non lo so. Il mio discorso è se tu rendi il PEGI legale, non è che poi penalizzi i negozianti, i negozietti, che già i negozietti di per sé sono penalizzati perché l'online fa molta concorrenza. Se in più sono più controllati in quanto negozi fisici, è un discorso secondo me molto complesso, in realtà non è così semplice da gestire. Non so come facciano nel Regno Unito, so che lì però effettivamente c'è la multa per chi vende un gioco 18 più ad un bambino, quindi non lo Ok, però voi all'archivio siete inflessibili su questa cosa. so. Grandi Inflessibili. censori. Siamo inflessibili. Oddio, poi se c'è un gioco 16 più e viene un ragazzo di 15 anni, non è che ci sia proprio questa rigore estremo, ancor più dipende poi dal gioco cioè dal gioco stesso. Se il gioco io lo conosco, per esempio, e so che è un 16 più, ma magari non ha proprio dei contenuti così gravi, cioè così pesanti, e il ragazzo ha 15 anni, si può anche comunque trovare un compromesso, però tendenzialmente il PEGI viene rispettato, ecco. Quindi tu fai un po' il Peggy del Peggy anche. Io sono il Peggy del Peggy, sì. Però è molto raro che capiti Sei questo il perché revisore nel insomma, Peggy. sono esempi molto estremi, cioè non capita di rado che sia proprio l'età che il ragazzo abbia un anno in meno del Peggy, generalmente sono i dodicenni che vogliono giocare a GTA e gli viene impedito. Ma il dodicenne che vuole giocare a GTA è un caso reale, cioè non è che stai dicendo in No, no, no, è astratto. un caso È molto proprio GTA reale. il gioco ed è proprio Sì, dodicenne il dodicenne. GTA oppure Call of Duty oppure Fallout 4, sì, giochi commerciali standard, diciamo, quelli di cui più si parla, sono quelli che vanno per la maggiore in un pubblico giovane che non viene a fare ricerca ma viene solo a giocare, ecco. O Considerato FIFA, che ecco, sempre FIFA. Ecco, FIFA è FIFA è il... 17. FIFA, infatti, FIFA lo possono giocare, il fatto che sì... Cioè, io personalmente non sono contento che giochino FIFA, perché dico, c'è molta roba interessante perché giocare a FIFA. Così ti sei inimicato l'80% dei giocatori italiani di No, ma videogiochi. voglio dire, no, FIFA è divertente a casa con gli amici, però in archivio magari È un scopri vizio cose nuove. privato, FIFA. Non devi far vedere che ci giochi. È un vizio privato, ecco, in un ambito di ricerca, cioè mi piace vedere l'archivio come un posto di scoperta di cose nuove o che non puoi giocare a casa, ecco, più o meno. Beh, è un mio limite, non è che voglio dire che No, no, sia... no. Comunque GTA basava tutta la sua campagna promozionale sul fatto che era un gioco che faceva arrabbiare la polizia, i genitori, le maestre, e dopo 20 anni è ancora così. Di Double Dragon, Bubble Bubble Sì, e l'amico col. Bubble Bubble, ecco, dicevo, quelli sono Double Dragon e Bubble Bubble sono i primi ricordi che ho consapevoli in maniera seria, ecco, diciamo. Però non erano console, cioè non erano giochi che avevo a casa io, appunto, ci giocavo in sala giochi. Mentre se dovessi ricordare il mio primo gioco, cioè il mio primo acquisto vero di gioco, Ah, è un bene. gioco che in realtà non voglio mai ricordare perché non lo sento molto lontano da me, ed è Ikari Warriors su Atari 2006. Ah, tu Anzi, possedevi un su Atari Matra. No, 2600. in realtà io avevo comprato una console tarocca, nel Ah, senso che ok. era, si chiamava Matra, non so cosa sia, però si chiamava Matra, ed era fondamentalmente un Atari 2006, identico e preciso, tant'è che funzionava, i giochi dell'Atari funzionavano su questo Matra, e mi ricordo che avevo comprato questo Ikari Warriors, forse perché costava meno degli altri, molto semplicemente, ed è uno sparatutto. Una sorta di pseudo Rambo con visuale dall'alto e dove sei questo tipo che è in mezzo alla foresta che spara alla gente. Ma in realtà è anche un gioco storico perché quando ero piccolo non lo sapevo ancora. Quando sono cresciuto ho visto che veniva citato in molte guide, cose così. Però non è esattamente nelle mie corde come gioco, col senno di poi lo rinnegherei, ecco. Ok, però mi piace molto la storia dell'Atari 2600 Farlocco. Sì, il Ma sì, Matra perché 3006 è un clone dell'Atari 2006 ecco. distribuito in Italia dall'azienda Gradi SRL di Milano, che abbiamo sputtanato in questo Ma momento. non credo che siano Che ancora in Dimo penso non attività. esista più. Mi sembra O che difficile. farà, insomma, Quindi, farà ma altro. era legale? Ma era Fa la illegale? Gradi adesso fa l'Xbox 380. Comunque, secondo me era illegale. Ci sono dei problemi, cioè la ROM che doveva contenere un gioco incluso nella console non è mai stata installata, lo switch canale 1.2 non è mai stato installato, quindi c'è Bene. un buco nel retro del case, c'è un buco. Confermi? E, sai che in realtà forse ce l'ho qui dietro di me da qualche parte, potrei cercarlo. Perché effettivamente sarebbe una bella scoperta, nel senso che in diretta, cioè in diretta, nel senso che proprio così in tempo reale io scopro che il Matra c'ha un buco dietro. L'interruttore sul case è finto, è solo per coprire il buco originale dell'Atari 2006. Beh, ma stupendo! Sì, è È uno dei un peggiori brutto gioiello, prodotti mai ma messi è in identico circolazione. anche. La Sì, ed è. case è perfettamente identico, solo che In invece di questo Atari momento ce l'ho in 2006 mano. c'è Davvero? scritto Cioè, Matra 3006. c'è il sì. buco? Allora, io dietro vedo lo spinotto per la corrente, due buchi per i joypad perché si attaccavano dietro, un altro spinotto che non so cosa sia, e due levette. Non vedo altri buchi, però, Allora questo recensore che ho trovato al volo ci ha ingannato. Comunque, se volete, vi mando la foto poi. Bene. Comunque Matra è una bellissima scoperta. Ma molto Sì, bene. comunque ce l'ho ancora qui. Secondo me era anche illegale. Adesso, comunque l'ho comprato all'epoca e fu la mia prima console proprio comprata con, non dico con i miei soldi perché non credo di averla pagata io, però la mia prima console. Anzi, sì, era una console di fatto, sì. Sì, Ma in fondo sì, sì. sempre a volte PC console. Sai che all'epoca c'erano quelle piattaforme un po' strane, perché Sì, quando sì, ero sì. piccolo pensavo che il Commodore fosse una console. Quando ero piccolo. Tipo l'MSX, quello giapponese, insomma, che Poi ho uno ce l'ha. scoperto che invece no, era un computer, però l'ho Certo. scoperto da grande, quindi sono quelle cose che un po' ti traumatizzano, forse. Dici come ho giocato per anni con una console, pensavo fosse un computer o Con viceversa, nel cui avrei potuto senso. fare delle cose interessantissime, diventare un programmatore della Madonna e oggi avere una startup. E E invece. invece E giocavo invece. a International Soccer nella cartuccia del Commodore. Comunque questa è la mia storia, tocca a voi adesso allora. No, però Pensa che... il Matra è il colpo basso, eh? Straordinario. Non so se Ha già nessuno di vinto, noi ha già sì, è vinto, certo. jackpot. Pensa che io l'Atari 2006 ce l'avevo invece, comprato in Germania con un'unica cartuccia, 100 giochi, e non ho mai Certo. comprato altri giochi a parte questa, e questa 100 sono cartuccia da tanti. 100 giochi, però erano tendenzialmente tutti giochi degli anni 70, primi anni 80. Io ci giocavo all'inizio degli anni 90, quindi ti lascio immaginare qual era la fascinazione di queste robe. E ne ricordo due in particolare. Uno era un gioco di football in cui 6 pixel affrontavano altri 6 pixel e si muovevano tutti insieme. per cui tu controllavi con un unico joystick tutta la squadra che si muoveva come in una coreografia di palestra, All'unisono. esattamente all'unisono. Bello. Era un gioco di nuoto sincronizzato in realtà. Sembrava football sincronizzato e bisognava portare la palla oltre la linea di meta e non era chiarissima la meccanica e ogni tanto si poteva anche provare a lanciare, però era assolutamente una cosa dettata dal caso, non c'era nessun tipo di strategia né di abilità. L'altro che mi ricordo invece era Outlaw, è Outlaw dove due enormi pistoleri pixelati si sparavano da una parte all'altra dello Sì, schermo, certo, come Pong sì, praticamente, esatto, solo che questo me ci lo si ricordo. sparava dei pixel quadrati. E la variazione più divertente era quando in mezzo c'era un'enorme carrozza che andava distrutta per raggiungere l'avversario con i propri colpi. Una noia mortale. Però Però, no, comunque ma è sì. interessante questa cosa del giocare all'Atari 2006, cioè di fare il retro gamer prima che esistesse la categoria dei retro Eh sì, tu la fai molto intellettuale, ma in gamer. realtà era perché era l'unica cosa che mi potevo permettere come regalo quando ero molto piccolo. Non avrei potuto pensare di chiedere una console all'avanguardia che aveva dei costi veramente eccessivi. Allora, il mio sono abbastanza simile a quello di Andrea, cioè è splittato in un ricordo veramente primordiale di un arcade nella sala giochi di Moneglia, che è un paesino di mare, credo in provincia di La Spezia, ma potrebbe essere in provincia di Genova, dove andavano in vacanza i miei zii e io al seguito alcune volte, e c'era un gioco che poi dopo ho ricostruito essere Shinobi. Ma lì per lì era un gioco con un ninja che tirava le stellette, che è un gioco assolutamente punitivo, difficilissimo. Quindi la mia prima esperienza è stata drammatica perché c'era proprio una roba tragica giocare a Shinobi a credo 5 anni. Il secondo invece è un Commodore 64, però mio, cioè mio e di mio fratello in realtà, regalatoci da uno zio che faceva l'informatico e che quindi ce l'aveva regalato con la speranza che diventassimo dei geni della programmazione. Cosa che non è mai successa, con però inclusa la cartuccia con più di un gioco, ma che veniva giocata da me e mio fratello sempre per International Soccer, che è un gioco di calcio, tutto sommato per l'epoca non male, nel senso è un gioco credo dell'83-84, con scrolling orizzontale, insomma un gioco abbastanza interessante, fatto da questo tizio che si chiama Andrew Spencer, che poi è diventato un programmatore abbastanza prolifico per il Commodore, ma la cosa interessante era che io giocavo con il joystick collegato nella console. Mio fratello, che era molto piccolo, veniva buggerato perché io giocavo contro il computer, ma gli dicevo: no, no, ma stai giocando tu, cioè gli facevo credere che lui fosse il computer perché non aveva. E ha funzionato per diversi anni, almeno due o tre, in cui lui non si spiegava esattamente perché non facesse sullo schermo, non vedesse tutto sto feedback di quello che faceva, beh, perché sullo schermo stavo giocando il computer anziché lui. Però questo è il mio ricordo, cioè è un ricordo legato più al fatto di giocarci con mio fratello, totalmente in questa fase di stupore totale in cui succedevano delle cose sullo schermo e lui non sapeva perché, ma era veramente molto piccolo. E io che giocavo contro il computer, c'era questo segreto nella mia famiglia di cui mio fratello non era messo a parte, mentre tutti gli altri lo sapevano. Quando verrà ospite, chiaramente io gli racconterò questa cosa Ma e credo, vorrò vedere il non vorrei sangue. sbagliarmi, però gli è stata poi raccontata a un certo Ah. punto. Ma è andato Credo. in psicanalisi dopo, tipo psicoterapia poi è andato, poveretto. Sì, perché è stato. Però dovete pensare che era, secondo me era l'89-90, quindi io avevo 7-8 anni, lui ne aveva tra 4 e 5, cioè insomma a 4 anni ci può Sì, anche stare che ti effettivamente. buggero così. Poi un bel giorno ha lanciato il Commodore via dalla finestra perché evidentemente non funzionava, non faceva quello Esatto. che gli diceva di No, fare. poi io ho vissuto un contrappasso perché per tutto il resto della mia vita mio fratello mi ha sempre distrutto ai giochi di sport. E quindi tutto sommato alla fine secondo me siamo pari. Cioè da qua, diciamo da International Superstar Soccer in poi, io non ho mai vinto una partita di un gioco di sport, né nella vita reale né nel mondo virtuale contro mio fratello. Cioè neanche a ping pong Giusto. ho mai vinto contro mio fratello. E qui scatta un'analisi per te Sì, invece. esatto, quindi tutto sommato, cioè va bene, ero stronzo io allora, però ci cioè, si è anche rifatto lui negli anni. Esatto. E poi vabbè, poi mi ricordo le cassette del Commodore 64 comprate in edicola, ma insomma su. Illegali. Ma allora, secondo me questa cosa che fosse sia il matra che le cassette fossero illegali è una roba Allora, secondo me il è matra una roba no, di cui perché discuterei. vi posso dire anche qui sempre in tempo reale che guardando dietro il matra c'è scritto matra 3006 compatibile Atari, quindi lo sapevano già, lo dicevano pure, e poi dicevano, mettevano anche il loro indirizzo, quindi distribuito da Gradi, corso XY, non lo dico perché non vorrei che ci No, fossero beh, delle adesso diamo per ritorsioni. scontato che Gradi è fallito o che fa qualcos'altro, perché non credo che uno che ha fatto il Comunque è Matra. corso Plebisciti Milano, non so dove sia corso Plebisciti a Milano, comunque mi sembra una cosa un po', cioè, non nascosta, cioè mettono proprio compatibile Atari, quindi forse Atari lo sapeva. Le cassettine invece erano veramente illegali, te lo dico per certo, perché ho fatto un sacco di ricerche, perché un giorno mi è arrivata in dono in archivio una scatola di scarpe piena di cassette Commodore. E Di tre quelle da quarti di queste edicola, stiamo cassette erano parlando di cassette da quelle edicola. compilation con diversi giochi da edicola. Sì, Ok. ecco quelle compilation e non le ho potute aggiungere nel fondo dell'archivio perché mi faceva problema in quanto oggetti illegali, perché di fatto all'epoca c'erano delle case in Italia che prendevano i giochi giapponesi, cambiavano disegnavano la copertina loro da capo, cambiavano una lettera nel titolo del gioco e la te la vendevano in Certo. edicola, di fatto non senza pagare nessun diritto agli sviluppatori Certo. giapponesi. Quindi erano di fatto illegali quelle compilation, solo che al tempo non c'era alcun tipo di controllo a livello di diritti, quelle cose lì erano, Sì, è cioè, probabile che non giochi neanche erano esistesse considerati. una legislazione applicabile in Italia sul Sul diritto videogioco, d'autore del però videogioco. sono illegali quelle, cioè mi risulta 100% che siano illegali quelle cassettine, però mi rendo conto che ci siamo cresciuti più o meno tutti con quelle cassettine. Io mi ricordo che andavo in edicola, io non le compravo perché appunto non c'avevo il Commodore, però vedevo queste sfilze di cassettine e mi facevano sempre gola perché vedevo tutte queste cassette piene di Sì, ma giochi. tipo 10 giochi credo costassero meno di 10.000 lire. Mi ricordo di aver fatto una ricerca su questa cosa qualche tempo fa e i prezzi erano quelli 7-8.000 lire. Ma tu le archivi queste quando ti arrivano? No, Cioè, sono lì? ma no, nel senso che quella scatola che ci è arrivata è ancora lì, cioè l'abbiamo tenuta, ma non è stata catalogata e messa nel fondo perché mi fa problema, non ho ancora capito bene come trattare quel tipo di produzione. Da una parte il mio animo archivistico dice comunque va salvata perché anche quello è inquadrare un momento storico, anche se al tempo erano distribuiti illegalmente. Dall'altra mi chiedo, è però corretto metterle accanto ai giochi, diciamo, tra virgolette, legali? Non è facilissimo da trattare come argomento, nel Dipende senso. se la tua fonte o il tuo interlocutore principale sono i produttori ufficiali o sono i giocatori. Se tu ti rivolgi prima di tutto ai giocatori, allora sì, secondo me. Sì, Se si invece ti rivolgi potrebbero anche ai mettere in effetti. produttori. Ma infatti non sono molto incerto, per ora sono rimaste nella loro scatola delle scarpe, però potrei effettivamente. Ma dimmi, dimmi. È interessante elaborare una categorizzazione apposita per questi oggetti, no? Inizi a elaborare una categorizzazione apposita per questi oggetti qua, Sì, quindi. sarebbero forse da catalogare anche se cioè dovrebbero avere un loro contesto, anche perché in effetti se sono copie con titoli differenti di giochi che però esistono, anche lì va capito bene come catalogarle rispetto al gioco, tra virgolette, originale, cioè a livello di conservazione va capito come trattare quel tipo di gioco. La mia risposta a questa roba qua è che secondo me per un lungo periodo, almeno io, ma poi è una cosa che condivido con altri, questa roba che alcuni giochi fossero legali e altri fossero illegali, anche in modi più spettacolari delle cassettine da edicola, cioè ad esempio il fatto che noi andassimo a comprare giochi per PC da un tizio a casa sua e c'erano tipo 10 giochi dentro un CD-ROM masterizzato, però il fatto che questa roba fosse illegale. Non è che mi fosse particolarmente chiara, ma né a me né alle altre persone con cui giocavo. Parliamo secondo me, dall'inizio alla metà degli anni 90, grosso modo. Ma nemmeno a me era chiaro che fosse illegale, credo che non fosse chiaro quasi a nessuno dei giocatori. Mauro, tu hai esperienze di illegalità? Ma in realtà, in generale, dici in generale, no. Vedi tu quanto vuoi comprometterti. In realtà io non ho mai acquistato dei giochi in edicola o... Sì, anzi, ho acquistato una copia di un gioco abbastanza famoso copiata a fine anni 90 sapendo perfettamente di stare compiendo un atto illegale, ma questo è molto diverso da quello di cui stavate parlando voi. In realtà non l'ho mai acquistato perché, un po' come Andrea, oltre al mio Atari 2006 fidatissimo con i pixel Che hai giganti, ancora nel corridoio di casa tua, ho vero? ancora soprammobile perché i joystick non funzionano più e quindi lui non lo so se funziona ancora, bisognerebbe provare. E, oltre a questo avevo anche io un caro amico che aveva un 486, quindi ero un po' più avanti tecnologicamente, se non sbaglio, e, che aveva un gioco fondamentalmente, Golden Axe, e noi abbiamo finito Golden Axe credo 200 volte nella nostra vita, e quindi non sentivamo il bisogno di acquistare giochi nuovi. Questo probabilmente è un po' patologico, però è così. Ma posso dire una cosa su Golden Vai, Axe? vai, Golden Axe è uno dei temi preferiti. Ecco, Golden Axe secondo me non dico che fosse una cagata, però il fatto è che Golden Esci Axe da l'ho casa mia. sempre. Lo so, anche Esci da perché è un questo gioco storico corpo. Golden Axe, cioè chi ci ha giocato anch'io, però io l'ho giocato anche recentemente. È ingiocabile quel gioco, cioè Perché? quando cerchi di Recentemente, dare un certo. calcio a quei folletti Sono malefici. nani E con lo sei zaino. sempre sul piano sbagliato, sei sempre sul piano sbagliato, È sei vero. più Ma in se tu là. non hai la percezione della profondità, non è colpa di Golden Axe, però. No, ma secondo me non era un gioco, cioè era un gioco bello perché al tempo sembrava veramente fighissimo giocarci, però secondo me era parzialmente ingiocabile. Ecco, ora l'ho detto e a posto, sono felice. Ma io ci giocavo al tempo quando era una cosa incredibile. E vabbè, l'ultima cosa del mio rapporto con questo grande amico, che è tuttora un mio grande amico, relativo ai videogiochi, è che poi da lui ho scoperto il primo Warcraft, e che poi insomma ha avuto l'evoluzione che ha avuto, il franchise, tutta la serie di giochi, e lo ricordo perfettamente come una cosa assolutamente affascinante, cioè dire a degli omini fate questo e poi questi andavano e tu potevi fare altro, era una roba che non... Invece, videogiochi i cui inizi, cioè le cui scene introduttive o sequenze iniziali o prologhi come dire, vi hanno colpito e vi sono piaciuti e ci sono piaciuti? Oddio, è sempre. No, io lascerei la parola a voi che ci penso un attimo, perché non è facile pensare. Non lo so, che mi hanno colpito. Ma non so, ce ne sono alcuni molto toccanti. Vedi quello di Shadow of the Colossus con lui che arriva e porta la sua amata nel tempio. Ci sono delle cose belle, però ecco. Lascio la parola a voi, poi io ci penso Ok, intanto. Mauro che se l'è preparata invece. Io me la sono preparata e parlo di un gioco che poi in realtà se ne potrebbe parlare per 100.000 altri motivi, però è Gone Home, che inizia, è un gioco esplorativo in prima persona molto semplice, non ha delle meccaniche complesse, inizia quando il nostro personaggio, che è una ragazza, ritorna a casa dopo un periodo di studio all'estero, credo, se non sbaglio. E questa casa è disabitata, i suoi familiari non ci sono. E all'inizio il gioco, per me almeno, è caratterizzato fortemente come un gioco horror, cioè c'è un temporale, ci sono dei rumori, c'è il rumore del vento. E io all'inizio lo giocavo come un gioco horror, però ad un certo punto c'è un cambio di registro molto netto in cui si capisce che non è successo niente di sovrannaturale alla famiglia di questa ragazza, ma sono successe delle cose che piano piano durante la partita si scoprono attraverso letture di diari, ascolto di audiocassette, insomma tutta una serie di indizi che poi ricostruiscono la vicenda della famiglia del nostro personaggio. E per me è un inizio molto molto interessante, che poi non so se l'ho vissuta solo io così o se è qualcosa che è una percezione più diffusa il fatto che Gnome inizi come un horror, No, insomma. ma quello sono d'accordo anch'io. Cioè, Gnome, io pensavo fosse un horror inizialmente. Sì, secondo me dipende molto da quando l'hai giocato nella vita del gioco. Cioè, se tu l'hai giocato prima che diventasse una cosa di cui hanno. Perché Gnome è un gioco di cui hanno parlato tutti, insomma, su cui c'è stato molto dibattito, nella critica, ma non solo. E allora a quel punto lì, se tu, come è successo a me, lo giochi dopo, quel momento di notorietà, quella parte lì te la sei sputtanata. Nel senso che tu puoi giocarci e dire: sì, in effetti mi sembra un horror, ma so benissimo dove va a parare. O comunque ho un'idea piuttosto chiara di dove va a parare. Ma non so nemmeno se è stato progettato per sembrare un horror. Anche questo è una cosa che mi sono chiesto, ma non ho approfondito, per dire. Secondo me un po' sì, secondo me loro sapevano, volevano un po' spiazzarti, perché poi di fatto prende un'altra direzione, però secondo me è progettato con questa atmosfera effettivamente non, misteriosa, cioè appunto più legata ad atmosfere horror, insomma era voluto, Cioè, secondo quasi me, poi bisognerebbe chiedere. soprannaturale, no? Non so se sei d'accordo, cioè quasi come se noi fossimo abituati a giocare dei videogiochi di un certo tipo con certo tipo di contenuti, no? Cioè che ci sia qualcosa di soprannaturale, qualcosa di fantascientifico, di fantasy o di, insomma, trascendente la realtà. E E poi in poi realtà il invece. gioco ritorna e la storia è molto molto invece attuale e legata a cose molto reali, molto molto contemporanee, insomma. Che È vero. non diremo perché che No, magari beh, quelli che non l'hanno giocato se lo andranno a giocare. E c'è un ovvio. gioco molto simile che non è molto simile, è comunque un gioco esplorativo che si chiama The Eh Rester, sì, certo. che funziona un po' nello stesso modo, che all'inizio ha delle marche un po' inquietanti. Lì in realtà poi c'è il soprannaturale, molto sotto traccia, anche quello è un gioco esplorativo, che un po' I mi, walking insomma, simulator. come? Non usate questo nome, secondo me è una cosa raccapricciante. Il walking simulator. No, walking simulator, cioè simulatore di passeggiata è No, no, mai agghiacciante. usato. È Sì, che no, sono viene. d'accordo, il nome non è granché, però definisce una serie di giochi che in effetti nella tua mente metti insieme. Cioè, Sì, li puoi Gnome, mettere The insieme, però. Rester, Everybody's Gone to the Rapture. Sì, The Vanishing of Ethan Carter. Quello completamente folle, con i colori psichedelici. Me Errori psichedelici. l'hai regalato tu, credo, Riccardo, Io a questo te? bel. Come si chiama? Heavy Quello Bullet? dell'isola tutta colorata, stranissima. Proteus. Ah, Proteus. Proteus, certo, Proteus. Proteus. Ecco, Proteus è l'estremo però di quella roba lì. Nel Sì. senso che non c'è nessuna intenzione narrativa, se non quella molto vaga del fatto che ogni tanto ci sono dei conigli, però adesso che i conigli Comunque, secondo siano. me, Walking Simulator è comodo perché in effetti definisce un corpus di giochi che hanno caratteristiche simili, però sembra anche un po' svilirli perché di fatto non sono delle No, passeggiate. no, C'è fatto di. certo. Cioè, anzi, io a volte cioè, penso che siano in realtà videogiochi, beh, più videogiochi di tanti altri generi perché di fatto l'esplorazione è forse la cosa più videoludica che esista, la cosa più videogiocosa che esista l'esplorazione, Sì. quindi a volte Walking Simulator mi sembra un po' così, però no, effettivamente per The Rester e tutti quegli altri, Everybody's Gone to the Rapture, ci sta, cioè, riesce comunque quantomeno a metterli insieme. Sì. Sì, che poi anche GTA lo puoi giocare come un walking simulator. Cose da dire. Una è che un po' tutti questi che chiamiamo, non li chiamiamo Walking Simulator, ma per capirci, un po' tutti hanno l'idea del fare una cosa banale, cioè che l'interazione principale sia banale, banale nel senso più neutro del termine, cioè non banale nel senso che palle, banale nel senso relativa alla tua vita reale, né in The Rester né sicuramente in Gnome. Né in Proteus per certi versi, fai cose che non faresti nella tua vita, cioè cammini, ti guardi intorno, in qualche modo esplori il tuo, quello che ti sta intorno. Secondo me è molto interessante l'idea del costruire un gioco intorno alla meccanica, tutto sommato, della banalità, cioè del fare cose che facciamo tutti i giorni. Perché è un po' controintuitiva, però evidentemente funziona, come dire, ci vogliono risorse, secondo me, di design e intellettuali abbastanza abbastanza significative, ma funziona. Per me Gnome è un gioco che funziona di brutto, cioè è una storia che mi racconta una storia che mi piace e lo fa, che mi interessa, che mi attira e lo fa attraverso una meccanica che però è di per sé, è la quintessenza della banalità, cioè andarsene in giro per una casa. Però è vero che funzionano secondo me perché in realtà c'è un grande sforzo, un notevole sforzo nel costruire gli spazi che vai ad esplorare. Perché pensa a Gnome, cioè quando arrivi nella camera, in una delle camere da letto, trovi sull'armadietto i poster di Beverly Hills 90210 con Kelly. Cioè sono tutti dettagli che costruiscono un ambiente, costruiscono un contesto, che se effettivamente servono molto a calare il giocatore in quello spazio lì. Quindi secondo me i Walking Simulator funzionano bene quando riesci a creare uno spazio interessante, nel senso ben congegnato, nel senso poi sì, sarebbe anche qui da passarci delle ore a parlare di Walking Simulator, in effetti. Sì, c'è una progettualità dello spazio che è diversa, per dire, da quella di Doom o da quella di Call of Duty, per dire sempre, dei giochi dove c'è più iperazione, iperattività. Sì, e l'altra cosa che volevo dire. E mi attacco alla cosa che dicevi prima, Andrea, cioè che l'esplorazione è forse la condizione naturale del videogioco. Non è una cosa di cui sono completamente convinto, però mi ha fatto venire in mente che oggi pensavo al fatto che, secondo me, tutto sommato, un gioco veramente rivoluzionario, forse più rivoluzionario di altri a cui si dà più credito, e mi è venuto in mente giocandoci recentemente, è Pitfall. Cioè, un gioco in cui tutto il mondo del gioco non è compreso in un solo schermo. Che è una roba che fino a quel momento lì era, almeno, come dire, a mia memoria, è abbastanza rara. L'idea che ci sia un gioco in cui il mondo del gioco eccede i bordi dello schermo, in cui tu non vedi tutto il mondo contemporaneamente, no? Come succede nei giochi arcade di quegli anni. Insomma, Pitfall credo sia dell'80 o dell'81. Grosso modo siamo nell'epoca d'oro dei giochi arcade. E mi è venuta in mente questa roba qui, che tutto sommato è legata all'esplorazione, cioè l'idea che sia un mondo da esplorare che non sta tutto nello schermo di un gioco. Mi sembra che in Ma Pitfall più che sia altro, una delle prime secondo volte che me, succede. io ho detto esplorazione, però in realtà quello che intendevo più in generale, cioè esplorazione si rende bene, però quello che intendevo è proprio il rapporto che c'è tra l'avatar e lo spazio virtuale, che poi può essere più delle volte esplorativo, cioè tu devi muoverti in questo spazio per procedere nello spazio, però fondamentalmente appunto alla base c'è questo rapporto tra avatar e spazio in cui viene calato, che è poi quello che secondo me definisce il videogioco più in maniera specifica rispetto ad altri termini. Però in effetti sì, Pitfall è interessante, non ci ho mai pensato al fatto che c'è un mondo oltre la prima schermata. È interessante questa cosa, in Sì, è anche effetti. che non è un gioco che ti punisce immediatamente per i tuoi errori, come succede in molti giochi arcade, no? In cui a un certo punto sostanzialmente un errore sei morto. In Pitfall c'è l'idea esplorativa che, insomma, puoi anche rischiare, puoi anche testare il mondo intorno a te e capire se è ostile oppure no e quali parti di questo mondo sono ostili, cioè se i tronchi ti fanno male oppure no, eccetera. Non so, io per Pitfall ho una passione assoluta, però mi rendo conto che ogni volta che ci gioco scopro qualcosa che non avevo visto la volta prima. Pensa che Pitfall è di David Crane, che è l'autore di Night Trap. Vi ricordate Certo, Night Trap? Night Trap è uno certo, dei giochi più controversi della storia dei videogiochi, che insieme a Doom, Mortal Kombat e non mi ricordo cos'altro ha fatto fare insomma, è passato diverse volte per il Parlamento americano apriamo la finestra Night Trap, perché magari non tutti. Io non ci ho mai Trap. giocato, per Qui c'erano esempio. delle donne in sottoveste, Anche l'ho questa è giocato, lo la conosco di nome, ma non l'ho controversia. giocato. Ma c'è all'archivio Night Trap? No. È un No? film interattivo. Ci Sì, sono dovremmo le persone recuperarlo. vere, ci sono le persone vere, un po' digitalizzate. Un po' tanto. Ah, è un film E ci interattivo. sono dei Sì, che meraviglia. vampiri, se non sbaglio. Ci sono dei vampiri che devono. Ma Insomma, che attaccano siano queste donne vampiri, mi pare che sottoveste. sia una tua deduzione. Sono dei tizi in tuta, sostanzialmente. No, erano dei vampiri. C'era una connotazione di quel Ah tipo, sì, perché. Queste donne vengono morse, c'è qualcosa di questo, forse era un gioco erotico che io non capivo, forse. ok. Ma c'è anche, vedo l'attrice da Dana Plato, non so chi sia, però viene citata, quindi chi è Dana Plato? Facciamo una Non lo piccola so. ricerca. No, adesso la Ah, facciamo. del mio amico Arnold c'era Dana Plato, va bene. Osteria. proprio un'evoluzione alla Miley Cyrus, Sì, esatto. incredibile. E no, insomma, il programmatore, game designer di Pitfall è lo stesso di questo, per quello mi è venuto in mente. Vabbè, insomma, pure anche i grandi fanno delle stronzate. Nel senso che nei trap credo che unanimemente sia considerato, oltre ad essere un gioco controverso, con la violenza, eccetera, eccetera, eccetera, però credo che sia unanimemente considerato una stronzata, come l'80% dei film interattivi. Sì, e Non è vero, da alcuni purtroppo. si salvano, alcuni si Infatti salvano. l'80%, sentiamo qual è il tuo 20% dei film interattivi. Gabriel Knight 2. Fantasmagoria. Fantasmagoria si salva Sì, perché è ma non trash. essere così passivo-aggressivo, però, Riccardo, cioè, lasciagli spazio per provarci. Secondo me, Gabriel Knight 2 è un bel gioco. Fantasmagoria non è bello, ma è trash e quindi diventa bello. E altri film interessanti. Beh, The Ripper non era male. The Ripper, quello con Questo non lo Christopher conosco. Walken, era Davvero? decoroso. Ce n'erano alcuni che si salvavano, sinceramente. Pochi, ma si salvava. Cosa si salvava? Molto bene. Cioè, Ma hai e giocato. Fahrenheit e figli, tu li consideri dei film interattivi o no? Non c'è evoluzione di quel tipo di film, perché adesso io parlavo di quelli con attori in carne e ossa in questo caso specifico. Fahrenheit in effetti è un'evoluzione del film interattivo, tutti i giochi di Cage sono evoluzioni del film interattivo in qualche modo, però anche lì il film interattivo a me come parola mi fa sempre un po' impressione, sinceramente, come non come parola, come espressione, perché effettivamente come fai a dire, cioè cos'è un film interattivo? Beh, però È una domanda immagino, che te la inquini e era reagisci. anche un termine che funzionava molto in quel momento lì. Cioè, ti vendeva un concetto che tu intuitivamente afferravi, no? Perché hai un'idea di cos'è un film, hai un'idea di cos'è un videogioco, che figata, il videogioco però con gli attori veri. Certo, poi la realizzazione è una roba. Appunto, agli attori veri, ma per il resto, cioè, Gabriel Knight 2 per dire è un'avventura grafica con attori veri, però è Sì. un'avventura grafica. Sì, sì. Cioè, forse Dragon's Lair è un film interattivo, di Sì. fatto Dragon's Lair è un film a tutti gli effetti di animazione e tutti i limiti a dare un input, un po' come il Lion Trophy Show in qualche momento, nel senso. Il Lion Trophy Show. Allora, No. sciogliamo questo dubbio. Il Lion Trophy Show, che per chi non lo sapesse, era una trasmissione televisiva, credo andasse in onda su Telemonte Carlo. Sì, Tele Monte Carlo, è In vero. cui gli ascoltatori, anzi, gli spettatori da casa chiamavano e tramite i tasti del telefono comandavano sullo schermo questo leone che stava sopra una specie di veicolo che ora non ricordo quale fosse, che doveva prendere varie bivie e deviazioni, no? È vero, era una roba così, grosso Sì, sì, modo. sì. Condotto credo anche da Adriana Volpe a un certo punto. Questi sono pezzi di Che i più conoscenza della. giovani non sanno nemmeno chi è, No, probabilmente. beh, sì, No, io di forse. recente ho scoperto che la conduttrice dell'Lion Trophy Show, una delle, quella più celebre, ora fa Chi l'ha visto. Davvero? Sì, io È sapevo la. che invitando Andrea prima o poi avremmo parlato di Chi l'ha visto, No, non questo è è quello che casualmente inevitabile. fa l'inviata, è un'inviata che se la rivedi adesso non la so, c'è un'inviata di Chi l'ha visto e vi invito a fare ricerche, però ecco, chiusa parentesi. No, no, che chiusa parentesi, un attimo, non ti puoi tirare indietro così. Però la domanda è, il Lion Trophy Show, come funzionava? La mia impressione adesso da adulto è che fosse tutta farlocca. Cioè che questi Secondo schiacciavano il me tastino e c'era uno in regia che più o meno li faceva vincere o perdere. Cioè mi no. Io sembra spero no. implausibile che fosse tutto così funzionante. Voi non vi siete mai Oddio. posti questo dubbio? Ma sì, Cioè, qual è la però. tecnologia che permette quella roba lì? Ho Io no, io volevo credere. capito, ma qual è lo strumento tecnologico? Magari sono un coglione io, però qual è lo strumento tecnologico che permette di fare quella roba lì 20 anni fa? Non lo so, il telefono con i pulsanti, non lo so. Ma lui vuole credere, lascialo, lascialo. Andrea, hai ceduto completamente alla narrazione del Lion Trophy Show. Comunque, ce n'erano altri di programmi così, c'era qualcosa sulla Rai, secondo me, dopo. Credo dentro Secondo me, Solletico. il contenitore solletico Sì. o una cosa del Sì, genere sì. avevano dei giochi Può simili. essere. Sì, ce n'era uno dove andavi nella miniera, cose strane, Sì, forse non mi sì. ricordo. Però potrebbero rifarle queste cose. Secondo me potrebbero avere un nuovo appeal, nel senso. Assolutamente. I ragazzini adesso impazziscono per quelle cose lì. Sì, Diventano avendoci pazzi. degli smartphone da 8 Esatto. pollici in mano, impazziscono per Per giocare con poter un giocare con telefono un atomic che non telefono. ha più nessuno. Con un telefono fisso su Rai 3. È proprio una roba che io vedo proprio i ragazzini che diventano pazzi per queste cose. Gioco con l'inizio che ti ha sconvolto? No, Sconvolto? No, perché non hai fatto i compiti. ma io sono un po' senza cuore, non mi faccio No, sconvolgere, no. davvero? No, effettivamente ricordo pochi inizi, cioè ricordo che ne so, l'inizio anche di Broken Sword con la mega esplosione nel bar parigino, Beh, che comunque ero questo è piccolo. anche attuale. Sì, tra l'altro quando ci ho pensato, quando c'è stato quell'evento a Parigi, perché anche Broken Sword inizia con questa esplosione, c'è un pagliaccio che arriva in un bar e lascia giù una bomba, poi se ne scappa e c'è l'esplosione. Mi è rimasto impresso perché io amo quel gioco, ma perché poi dai via tutte quante le ricerche, c'è cioè indagare su chi è stato e cose così. Ma non mi sembra un inizio particolarmente memorabile in assoluto. Però ti ha Addirittura. colpito. Ma sì, no, mi ha colpito perché effettivamente comunque quando ho giocato a Broken Sword avevo 15 anni, tipo quando sì, comunque ero ancora un giovane giocatore, quindi erano le prime narrazioni videoludiche consapevoli, perché appunto io giocavo già da prima, però ero ancora un bambino, quindi da bambino cogli meno certe cose, mentre crescendo poi apprezzi di più anche certe sfumature. Però ecco, inizi che mi abbiano proprio sconvolto. Non mi sembra, cioè non mi vengono in mente, ecco. O se mi vengono in mente durante nei prossimi 20 minuti ve lo dico. Io metto sul piatto un gioco che ha avuto una certa fama, però non è che sia, insomma, uno dei grandi classici, che è Blood Omen Legacy of Kain. È un gioco di ruolo a tema vampiri, di cui poi si sono state fatte varie sequel, espansioni, come dire, diverse estensioni. Ma Ma non erano vampiri, erano tizi in tuta. In Blood Omen Legacy of Kain, che è un gioco con i vampiri, è molto interessante perché tu, giocatore, sei un vampiro e quindi ci sono tutta una serie di meccaniche, giorno, notte, sangue, non sangue, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la cosa interessante è che il gioco inizia in una specie di taverna, tu esci dalla taverna e tempo 4 passi ti fanno fuori. Ti fanno fuori in modo irreparabile, cioè non ce la farai mai a passare quella roba lì, nel senso che proprio. Come dire, è programmata in modo che ti facciano fuori. E a quel punto lì parte una cutscene delirante in cui tu sei, c'è questo vampirone crocifisso all'inferno, ma secondo me è già una scena straordinaria, e poi inizia il gioco. Ma quando io ci giocai nel 96-97, quindi quando avevo 14-15 anni, questa roba che ci fosse un gioco che iniziava facendoti fuori, cioè che iniziava uccidendoti, allora mi sembrò molto. Mi colpì molto. Poi nel tempo ne ho trovati altri che funzionano così. Uno, per esempio, è Kral per Atari 2600, che è l'adattamento di un film abbastanza orrendo degli anni 80. O per Matra O per Matra 3600. 3000, credo siano due versioni diverse. Quella per Matra 3600 funziona anche con Oculus Rift, Era credo. Pral, Era comunque. Kral 3600. Anche quel gioco lì, c'è cioè un primo livello in cui tu sei costretto a morire. E poi dopo il gioco invece procede in altri livelli in cui puoi anche non morire. Ma nel primo livello tu muori. Non è che muori, in realtà ti viene sottratta la fidanzata. Nel primo livello tu stai sposando. Sei una specie di cavaliere medievale che si sposa e ti viene inevitabilmente sottratta la fidanzata. Perché quella lì è la promessa narrativa di tutto il gioco. E funziona un po' nello stesso modo. A me questa roba qui che mi successe giocando a Legacy of Kain mi colpì molto. Cioè il fatto di morire subito. È interessante morire subito in un gioco, in effetti, come incipit non è male, Non è mi rendo conto male. che ha il suo perché. C'è un esempio di quelli che facevi tu, della morte al primo livello, da cui poi si aprono tutti i risvolti narrativi dei giochi, molto recente, che è Shadow of Mordor, che se non sbaglio nella cutscene iniziale il personaggio principale muore e rimane però attivo in vita grazie a una fusione con uno spirito di non mi ricordo cosa, salcazzo si può dire, salcazzo. Credo di sì. E quindi è molto simile, quindi è un espediente abbastanza abbastanza usato, secondo me. Che chiaramente in Qualcuno. quell'esempio di Legacy of Kain era parecchio innovativo, senza l'ultimo NBA 2K 16, 15, Sì. 16, 15. Ma sai perché non ricordo mai Adesso è uscito il 16. il 16, No, esatto. ma Ascoltami l'altro, dai. perché nel 2015 esce il 16, perché giustamente non Alla ci gioca fine del il 2015 c'è il 16. 16 e l'anno successivo. Sì. E quindi in questo momento ho avuto un blackout cerebrale, pensavo di avere il 15, invece ho il 16. Nel 16 c'è un lancio molto forte, un lancio pubblicitario molto forte, che è il claim vivi, non mi ricordo com'è, vivi la storia dentro uno Spike Lee joint, cioè la modalità di gioco a giocatore singolo in cui tu crei il tuo giocatore, il tuo alter ego normalmente e usi solo quello nelle partite. Si sviluppa all'interno di una serie di cutscene molto lunghe, di filmati molto lunghi, fatti da Spike Lee. Allora io ho giocato questa modalità, no? Che in sé è anche abbastanza riuscita, in molti l'hanno criticata, però insomma è uno stereotipo di Spike Lee, non è un capolavoro di Spike Lee. È un incrocio fra Fa la cosa giusta e You Got Game, un po' banale, vabbè. Però all'inizio tu crei il tuo alter ego, io ovviamente che sono bianco come la mozzarella, mi sono fatto bianco come la mozzarella, inizia la prima cutscene e sono il figlio di una coppia di Brooklyn, di neri del ghetto, veramente, veramente molto fighi, molto belli, però io sono bianco, allora questa cosa un po' C'è un non po' una andava. dissonanza. C'erano questi dialoghi in cui loro mi abbracciavano, mi dicevano figlio mio, sei l'amore della mia vita, dicevo vabbè, facciamo così. Per mantenere la sospensione dell'incredulità, penso, sono adottato. Sono degli italoamericani, dei vicini italoamericani, che non lo so, è successo qualcosa, è rimasto da solo, mi hanno adottato loro. Bellissima storia, di C'è integrazione, tutto uno fantastico. strato narrativo che hai aggiunto tu Io ho completamente. aggiunto uno strato narrativo bellissimo così, e quindi me la vivevo proprio bene finché non appare la sorella gemella del che Ma è una ovviamente soap questo, cioè. no, ma insomma sono molto lunghe queste cutscene, ce ne sono anche da una decina di minuti, sono dei corti fondamentalmente, e solo che la sorella gemella Sisi è ovviamente una nera del ghetto di Brooklyn, quindi, quindi lì a quel punto lì c'è stato uno straniamento totale e la sospensione dell'incredulità dello Spike Lee joint è crollata totalmente. Completamente. Non avevo più modo di fingere di essere veramente membro di quella magnifica famiglia. Beh, ma lì è interessante però, perché devono aver pensato a questa evenienza. No, non credo. Con il ritmo con cui buttano fuori le nuove Vero. edizioni piene di bug, piene di problemi, non credo l'abbiano valutato tanto. Anche perché ci sono una serie di attori che hanno interpretato i vari personaggi e ce n'è uno anche che interpreta il protagonista, per cui se tu non crei il giocatore a tua immagine, Te ne danno uno di giochi default. con un giocatore prefatto che è chiaramente il personaggio di quella storia. È solo che il tuo pupazzo digitale va a sostituire quello e crea questa cosa tragica. Se l'avessero pensato, non avrebbero fatto la sorella gemella, No, avrebbero fatto la infatti è cosa. quella la parte che mi La lascia sorella molto gemella è un plot perplesso, che di lì non point si veramente scappa. storico. Di lì proprio non si scappa, non c'è niente da fare. Cioè, non chiamarla sorella gemella, potresti anche solo dire che è tua sorella, uno può anche dire, ma sì, forse è la Esatto, mia sì, sorellastra. complicatissimo. Però come dire, lo sviluppo narrativo sfrutta molto questo rapporto strettissimo dei due fratelli che hanno un'intesa che poi un po' si incrina e dopo ritorna forte. E quindi il fatto che fosse una gemella era proprio per dare ancora più forza a questo rapporto qui. E Molto chiaro. ci stava in sé, è un grande stereotipo, ve l'ho detto, però ci stava, io me lo sono goduto anche. Pur essendo. Oppure mi piaceva molto Michael Jackson e mi sono fatto schiarire. Lo so che sono cose bruttissime, ma no, è un modo io dovevo trovarlo per Per rimanere dentro la essere figlio storia. loro Sì, veramente, certo. anche se non era visivamente impossibile. Perché ti sei fatto bianco? Tu dici perché cazzo volevo farmi bianco? No, perché volevo fare me stesso, no? È proprio Ti sei come i fatto bambini. somigliante? Somigliante, a parte il fatto che sono alto 2 metri invece di 1,80, perché 1,80 era un Io po' non mi faccio penalizzante. mai somigliante nei giochi. Ma ogni tanto sì, ogni tanto no, dipende, dipende. Il gioco Dipende. sportivo soddisfa sempre il sogno di bambino di diventare professionista dello sport, cosa che ormai credo Forse sì. sia irrealizzabile, a meno che io non mi dia a qualche sport, tipo il tiro con l'arco. Beh, non lo so, il tiro con l'arco, secondo me, forse il badminton. No, io parlo di limiti fisici, Ah, non certo vabbè. limiti tecnici. Tiro con l'arco è una roba probabilmente di una complessità che richiede un'abnegazione assoluta, Il però bridge. se ho 50 anni e sono molto bravo, il tiro con l'arco posso diventare professionista. A basket o sei Michael Jordan, oppure forse è meglio che rinunci. No, volevo concludere questa mia ospitata con un aneddoto curioso che ho scoperto oggi. Vai, vai, concludi l'ospitata. Ho scoperto che tra le biblioteche che in Italia conservano videogiochi, ce ne sono alcune che hanno delle collezioni, c'è anche la biblioteca comunale di Arcade, che è in provincia di Treviso. Questo Ovviamente parte però Arcade benissimo. è la pronuncia italiana, se lo pronunciamo in inglese è arcade. Io trovo bellissimo il fatto che un paese che si chiama Arcade conservi videogiochi. È in provincia di Treviso. Mauro, che tu sei di quelle zone lì, Io conoscevi? conosco, sì, conosco. No, però dai, è Non meraviglioso. credo C'è di un posto che esserci si mai chiama. stato, però il Un paesino che nome si chiama Arcade conserva i videogiochi. Lo trovo meraviglioso. è. Beh, Cioè, io vorrei bellissimo. spostare l'archivio videoludico lì se Ma è potessi. E ovvio. niente, quindi questo era un aneddoto con cui volevo chiudere. Arcade. Bisognerebbe fare un'interrogazione al consiglio comunale di Arcade perché qualcuno si attivi per cambiare il nome in Arcade. Chissà se hanno le carte intestate con i fantasmi di Pac-Man, quelle cose lì. No, Può ma se darsi. io comunque se abitassi lì mi chiedono di dove sei, sono di Arcade. Sono di Cioè non Arcade, direi di Arcade, mi certo. No, è suonerebbe strano ovvio. sono di Arcade. Cioè, È ovvio, è ovvio, è ovvio. Nolan Bushnell ha le chiavi della città. È assessore all'urbanistica. Sì, Arcade. esatto, di Arcade. Salutiamo gli amici, comunque salutiamo gli Gli amici di amici di Arcade che ci Arcade. ascoltano. Esatto, Arcade in provincia di Treviso. È in provincia di Treviso, sì? Sì, Sì. Benissimo. lo è, lo è. Va bene. Potremmo fare una gita, ecco, una Sì, gita ad ad Arcade. Arcade. Bello. Per fare la foto a fianco del cartello di ingresso alla città. Ma io davvero ci ho pensato, e non sto scherzando. Io volevo fare un giorno una gita, volevo organizzare una gita con un gruppo di amici nerd per andare tutti ad Arcade a mangiare. Poteva essere bello, però non l'ho ancora fatto. Però se Non è volete, proprio io ci dietro sono, se l'angolo, vogliamo però. organizzare. Io ci sono, Sì, ecco. però da Bologna non è vicinissimo. Beh no, non è neanche lontanissimo da Bologna a Treviso, Un paio paio d'ore. Sì, ho d'ore, capito, ecco. però cazzo, non è che stai Non so andando ad se. Arcade, che con tutto rispetto sarà una città straordinaria, però comunque non è Venezia. No, ho capito, ma poter dire deve essere andate a vedere Arcade, cioè io. Non so se ha delle altre attrattive. Potresti fare così: porta il Matra 3006 e fotografalo nei luoghi tipici, nei luoghi più caratteristici di Arcade. Da qualche parte in questo discorso c'è un progetto di arte contemporanea. Basta solo Ma secondo me cercarlo. effettivamente si potrebbero fare un total look al paese, dedicarlo veramente ai videogiochi. Cioè, tu entri in città e c'è un cabinato, una statua a forma di cabinato che ti accoglie, quelle cose lì. Le case sono tutte a forma di cabinato. Cioè, sarebbe veramente una meraviglia. Io abitassi lì, lo proporrei subito, cioè mi candiderei addirittura per poter guidare questo movimento di ritorno all'arcade, comunque. E Cioè, allora, ti devo dire che il comune, che oggi conta circa 4.500 vabbè. Vabbè, abitanti, neanche un paesino, insomma, dal 2000 al grossino. 2011 ha aumentato il proprio numero di abitanti di 1.000 unità circa. Quindi Ecco, vedi. c'è un boom C'è un incredibile. boom. C'è un Sì. boom ad Sono arcade, tutti vedi? campioni in pensione di tipo il Donkey Kong, di Pac-Man, di Galaga. Madonna, cioè, ma veramente è C'è una bellissimo il paese a comunità. tema. Tutti quelli che ci vivono sono vecchi appassionati di sala giochi. No, ma sarebbe meraviglioso. Facciamoci un film. Sì. Arcade. Tipo Arcade The Story, una cosa così, o The Movie, Arcade The Movie, e vai a filmare tutta la vita di paese di Arcade. Questa è un'idea bellissima, chiamarlo Arcade the Movie e poi fare un film in realtà sull'idro, tipo l'idrogeologia o l'orografia di Arcade, però senza mai accennare ai videogiochi. Non lo so, comunque secondo me c'è un potenziale che inespresso, cioè dovrebbero veramente valorizzarlo. Sì, va Vabbè. bene. Prossima puntata la registriamo ad Arcade. Perché poi è ricominciato a crescere dopo una grande crisi alla fine dell'Ottocento, in cui la povera economia rurale costrinse i numerosi arcadesi ad emigrare in America e probabilmente a fare i videogiochi. Certo. Ecco. E poi sono tornati, vedi? Hanno riportato il know-how in Veneto. Ecco perché hanno videogiochi nelle loro biblioteche. Non è un caso che siano videogiochi proprio ad arcade. E tutto torna, secondo me. Si chiude qui la prima puntata di Gettone con Andrea Dresseno, che è stato nostro gradito ospite e ci ha raccontato aneddoti straordinari su città del Veneto che hanno nomi videoludici, che è la sua specialità. Insomma, lui si è laureato in questa cosa con una tesi a pieni voti. Andrea, se vuoi dire qualcosa per salutare i nostri molti ascoltatori. No, direi semplicemente che ringrazio voi per avermi invitato a inaugurare la prima puntata e saluto tutti. Venite a trovarci in archivio, chiunque volesse, l'archivio è a Bologna, quindi chi è dalla parte di Bologna o vuole farsi una gita, noi ci siamo. Gettone è scritto e condotto da Riccardo Fassone e Mauro Salvador. L'editing e le musiche sono di Riccardo Fassone. Ci trovate su Facebook se cercate Jet1 con il numero, su Twitter @Jet1Podcast e via email a jet1podcast@gmail.com. Ciao! No, sì, molto bene. Chiudiamo su Bene. una Il nota sindaco è leghista, quindi significativa. probabilmente dobbiamo abbandonare qualunque proposito di attività culturale. Beh, Questo però lo sì. tagliamo, però No, comunque andava beh, anche la provincia detto. di Treviso, eh. I sindaci Va leghisti non bene. sono proprio una rarità. Questo taglialo, cosa vuoi dalla provincia di Ma Treviso? no, ma non ce l'ho con te, però è un dato, insomma, socio-storico. Cosa vuoi, professorino? Cosa vuoi?